io quelli sto. Ah, no, che tocca a Sorrento, tocca. Oh, beh, a me per il freddo, tiro alto. Vento leggero c'è. Dove altro? Ma là si fa bene, là. Però stavo facendo caldo, sì. Penso che ha fatto da poco. Però ha fatto caldo, sì. Il caldo c'era caldo, però c'era quel vento che era un po' fastidioso. Infatti. Certo. Il tappeto era un vento scoriente, ma forte, è freschetto pure, però dovete, la, la temperatura calda e per cui si stava bene, va. E adesso è un tacche fortino pure, però tacche a vento caldo, per cui è leggermente, va. Aspetta Giovanni, chi è che vuole entrare? Chi è che vuole entrare? Una gara sto. Per la gara. No, oh, si è acciarato da sopramodulato. Ah, ma non vuoi entrare. Dai, vabbè, faccio un maestro. Da seminobili. E purtroppo è così. Dammelo tempo, quasi altri due, già siamo tagliati. Allora, te credo che siamo tagliati. Certo, non ti presenti, ne manco. Buonasera. Buonasera, cazzo c'è una bella che il tempo, stavo girando il forcetto, se no mi si brucia. Lo sai, io un forcetto bruciato non la mangio io. Ma come hai bisogno di altra cosa? Vero Gio Mari? Ehi, ah, Manuel, buonasera. Ma come ti permetti a coprire a me, Manuel, non lo so io, cazzo. Va bene, sono piccolo e nero, ma a tapparmi come fai, cazzo? Io sono più piccolo di te, Giovanni, piccolino, è bianco. Ah, te. Ma tu gli altri bianchi, io sono nero, cazzo. Ah, cazzone mi hai tappato, cazzo. No. A me vuoi andarmi oggi? Dai, dai. Hai compreso, Giovanni? Era Girene, ma com'è Girene altra cosa? A tappare, a tappare a lui, cazzo, andiamo a stare cosa deve fare. Cazzo, deve ancora, è piccolo, deve andare ancora a aumentare. Cazzo, abbiamo fatto questo bel fossetto e un pollo, Giovanni, con le patate. Un bombone, due bicchieri di vino rosso per togliermi di qua intorno. Sì. Il medico di torno, se non c'è il punto però. Tu non lo puoi fare. Ma me fai niente di usual, che non lo fai che ingozze. Non so io come questo cuore, poi so. Ora si è caduto la sedia da Manuel. No, che sono di noi, se non mi dai il tempo che rispondete. Capi com'è Emanuele con me? Sì, l'ho compreso io, sì. Purtroppo è così. Emanuele, piano piano a girare. Cazzo. E poi si attacca il vino bianco pure, capito? Sì. Ma vai, girando, mi. Occhio, non gira di gozo. Stavo girando, basta. Ti ho bruciato tutto. Ah, già apposta, è tutto sotto controllo, è tutto sotto controllo perché c'è un cuoco al 100%. Però non buffa, anche se no da voi se buffi si interrompe. Okay. Lo so. Non buffa però. Basta, non buffa e muoio di lì. Cosa? No Mario, non buffa che se no mi si brucia il buchito. Ho credo, Stavo sempre l'occhio al vicino per il sicuro. Cazzo, la parola è cade bruciato lo stesso. Deve la fa. Allora, fa la partita lo bagno. Già la si brucia, non ti preoccupare, Gian Mario. Che ne lo posso bruciare io, tranquillo. Sarebbe comodo, questo. Allora veramente sei un po' disattento, lo credo, e per cui già lo sai come arrossire non bene. Ma lo sai, quando ero in Oliastra, quando ero in Oliastra a Marisaldo, ma lo sai che ti buchete a Giugurto un giradosto? Non hai un'idea. Sì, e care che non l'ho fatto. Più o meno l'abbiamo fatto tutto, devo accertare, capito? E io già. Perché in campagna non l'ho fatta? Certo. E come? Dai, si girava da solo lì, capito? E per cui dice a ruio ruio. Certo. Ogni tanto tracciato di lato. Certo, e sia ruio ruio sia. Lo so, perché bisogna saperlo fare. Piano piano la cultura, piano piano. Io calcolavo che ci volevano quelle 3-4 ore di cottura, lo accendevo, andava tutta la giura, un po' che ve la abbraccio. La stiamo cercando la travaglia, siamo puliti e l'abbiamo preso, era 1004, anzi 5, cazzo, dalle 4 avevo mangiato dai lupi, però era un bombone, era un bombone. Piano e vedrai che arriva la cultura giusta. Quando mi sulla la vedi, voi che cucci. Bisogna stare a saperlo cucinare anche. Bisogna anche saperlo cucinare. Non bruciarlo, perché da voi è troppo dolce, specialmente la troppo giusta. Ma tu non l'hai mai fatto? Un bel rosso. Un sacco di volte, anche se tu berra giù fatto. Quello lo fanno in montagna, lo facevano. Senz'altro lo faranno ancora. Però adesso lo mettono a 10-12, con ogni fuoco lo fini più. Certo. E l'ho visto l'altro giorno, l'hanno fatto vedere alla televisione, c'erano almeno 12 o 13. Bene, girando piano piano, cazzo, chissà che se l'ha mangiato. Io sono andato a Sagra, buonasera. Buonasera. E a te già non ti piacciono, cazzo. Ma che Manuele se lo sta cucinando stasera. Sì, a me già mi piace. Lo cucino e lo mangio un po' più, cazzo mi piace. Lo cucino anche, come ha detto Tore, sotto la mucca. Anche così l'abbiamo cucinato, ma lì lo fanno dalle parti di Nuvolo, nella Malmagna, quelli li fanno ancora così. Ah, noi ci me l'hanno imparato a me a farlo, così. Hanno imparato loro, dalla Barbagia. Quelli lo sanno fare, sì, al 100% loro te lo cucinano lì, bene, bene, bene, senza bruciare, senza nulla. Ti lo fanno croccante, croccante. Io sono andato a Sorso da poco alla Sagra quest'estate e c'erano tutti i pulcetti tutti attorno con il fuoco al centro e si pagava 10 euro, tiravano un pezzo di pulcetto, un bicchiere di vino e il pane. E alle feste mi fanno queste cose, alle feste. Dappertutto le fanno in montagna, ragazzi. A te se non l'ho mangiato. Sotto così, sotto terra. Ma lo sanno fare, ragazzi, noi non siamo capaci di fare una cosa del genere. Gianfranco Flore è bravo, è di Irduri. Quello lì sì, è proprio un arrossitore di mestiere. Gianfranco Flore. Esatto, quello lì, quello che non riesce mai un sorriso, se tu non vuoi ridere di dopo c'è tu io. Esatto, è bravo così quello lì. Allora, panettiere fa, però fa l'arrossitore alle feste, sempre a lui chiamano nei paesi. Se ce l'hanno commentato, gli ha detto che non si fa così, gli ha detto a lui. E lui gli ha detto, qui a farlo insegnare come insegnami tu come cucinare il maglianetto. Cazzo. non sai quanti anni cucina a Francofonte, 38 anni, sta con una tipa di Porto Torres che io conosco. Quello c'aveva un ricuffio l'altro giorno, mentre stava tagliando la casa si sentiva clic crack, che è proprio come croccante. Della camera croccante. E infatti io gli ho scritto che bel rumore che fa la contenta. Ora va. La pagia la contenta fa di. Anche la già mangiata però. Anche va bene timone. No, abbiamo fatto osservazione perché lui mette una luce a olio per fare la cotella croccante. Gli hanno detto che il Mike forcetto non si mette olio perché ne ha già di olio e cucina con l'olio suo, con il grasso suo. E lui gli ha detto, vabbè, ognuno lo fa come vuole, io lo faccio così e non si è mai lamentato nessuno. Io gli metto a bollardo, gli mettevo. Mi faccio a bollardo, nella cotenna mi passavo. E qualcosa di grasso. Allora, veramente, io l'ho visto fare in un'altra maniera. Praticamente il lardo scaldarlo e farli scendere le gocce del lardo sciolto sopra. Fatto così. Così facevo, non le gocce, però glielo passavo sopra, lo spalmavo là. Adesso sia croccante, certo. Ma io faccio croccante anche la pelle del pollo. Cioè, io... A me mi guardano tutti per come cucino il pollo. Anche i miei figli, mio nipote, quando viene, mi dice, Gio Giacomo, lo fa il pollo? È buonissimo, lo mangio da tante parti, ma così non è asciutto all'interno e c'è la pelle croccante. Anche così è buono, ma me ne busta da cucinare, da mangiare. Ma quelli mangiano bene carne. Gianfranco Flores sta sempre mangiando carne, affettati, prosciutto, salsicce fatte da loro, sempre queste cose mangia. Infatti gli hanno scritto tutto al colesterolo. Lui, quando lui mi ci porta, non capisco la roba buona, me l'assaggio. Se no non le si raccolta, esci. L'anno mai non soffrare i bidi. No, lui è tranquillo, capito? Mangia un po' di carne, mangiano un po' di carne, ma tutti i paesi è così. Stanno sempre cucinando, sempre facendo porcetti, vai e coso, agnelli, di tutto e di più. E poi l'usanza è quella, te la servono in questi vassoi di sughero. E la risolvo. Ciao Maria, ancora ci sei. In due giorni siamo rimasti. Già, in due giorni siamo. C'è Emanuele pure. Emanuele mi ha bisogno di andare a mangiare. Emanuele ci sei. E vabbè, e tanto fra poco dobbiamo spegnere perché tu devi fare la terapia, io ci devo portare giù il cane, quindi quella è arrivata quasi l'ora, dai, io sono entrato tardi oggi, ma non ne avevo voglia, sono con questo dolore sempre la gamba, cazzo. Adesso poi mi si è alleviato tutto, lo sai, ho fatto una ginnastica strana, avanti, indietro, destra, sinistra, così. E me l'ha alleviato il dolore. Oh, se non vogliamo assaggiarlo invece, eh? E io penso che sia qualche nervo accavallato, questo c'è buco aggiunto, perché tocco l'affare, fa tric-trac, quando lo tocco, io adesso lo sto toccando, un nervo fa tric-trac, quando lo tocco. Sicuramente è un nervo allora che è accavallato. In cerca di mettersi a posto, o è gonfio il nervo. Ho fatto come gli antichi, ho preso l'olio di extravergine di oliva e mi ho fatto un massaggio stamattina, come ti si fa anticamente. Ciao Bruco, lo sai che stai dicendo? Bruco, tutto qua, ciao anche a te Bruco. Ben sentito. Ma ora di entrare ti sembra, no Bruco? Come ho detto, ora di entrare ti sembra. Aspetta, io sono subito a te quando è tu, eh. Ma io sono andato a tardi oggi perché stavo cantando e dopo ho spento e sono entrato qua. Che Dio di l'ombre, se non avessi fatto il ritiro di Kauai non mi basterebbero più i soldi che il ritiro di pensione. Fotografia, pesca, la pesca l'ho mollata, non ci sto più andando, sono sempre con questo dolore alla gamba, ragazzi, non riesco a manca a muovere. Pensavo a Gian Maria, ci sei? Sì che sono sempre qua, sto sempre ascoltando tu. Ciao comunque Bruno. Stavate chiacchierando più o meno, che vi stavo ascoltando, aspettando che mi chiamassi, tutto lì, niente di importante. Però quanto canti già, la gamba ti fa male. No. Praticamente quando appoggio il piede come carico mi prende il dolore dove sono stato operato. Nella testa del femore, da dove c'è stata la giunzione. Ora c'è questo nervo che praticamente toccandolo fa tric-trac. Siccome ero caduto, probabilmente ho fatto qualche danno, qualche accavallamento, che ne so. Ma se non sei accavallato qualche nervo, forse per quello. Come è girato il piede, magari si è accavallato, si faceva bene, mai a passo, dai. Pertanto massaggiandolo queste cose già spariscono, capito? E sono caduto come signori busato. Cioè il cane mi ha tirato, c'era un diruppo, un piccolo diruppo. Come mi ha tirato il guinzaglio non ci arrivava più e ci sono preparato. Sono scivolato e sono caduto seduto. La prima cosa che ho fatto è guardato se c'era gente. È un battello, certo. Certe volte me lo aspetti, nemmeno lo aspetti, e ti trovo questo qua. L'altro giorno io mi stavo facendo la luce e mi stavo asciugando i piedi. Certo, non mi sono girato, sono caduto a panchinato, però male non c'era niente. Mi sbatto la testa al bidet, mi sbatto la testa. È un attimo, E a me mi è successo. Non mi faccio più il bagno io, mi faccio sempre la doccia perché col tappetino sono andato a alzarmi, ho annaspato due o tre volte, non ce l'ho fatta perché anche il tappetino ha scivolato. Anche se c'è le ventose, si è staccato e ha scivolato, io sono caduto, ho sbattuto la schiena al bordo della vasca e la testa a terra, sono rimasto attentuato, proprio, non svenuto proprio, ma attentuato un 10 minuti ed ero solo a casa. Poi quando mi sono ripreso ho tutto a dolori. Brutto, dolori. E lo finiscono qua, Avanti Bru! Ma io sono giovane, 70, cazzarola, e hanno quanti ne ha? Cavolo, e anche lui è grandetto adesso, e dai, passano per tutti, Bruce, se non ti fermi passano. È giusto che tutto lo devo avere già con te una volta. Tu, ho contato sul tuo canale. E c'è Giulio. Gianni! 82 anni. Guarda, anche tu non è stato, se non me lo ricordavo, che non mi sono fatto saltare. Ehi, vabbè, tu. L'interessante è festeggiarli e festeggiarli ancora tanti. Vabbè, la successiva prima la chiacchia che abbiamo festeggiato. Ok. Ho 82 anni, Giulio, infatti. È più piccolo, cazzo. e la vecchiaia sta andando piano piano, l'importante è piano piano raddoppiando il piano davanti. E così è già, purtroppo succedono queste cose, nemmeno ci aspettiamo e succedono. Io stavo aspettando, asciugando i piedi a mia moglie, no? Che stavamo facendo il saluto. Siccome quando mi inchino non riesco a alzarmi perché sono appunto, io pensavo che c'era il pacchetto a appoggiarmi invece il cellulare e sto cascato come pezzo di salame, ma non sai che mi fa male ancora la schiena. Dai, noi siamo fortunati. Un mio amico l'altro giorno stava parlando con lui dal giorno prima, scherzando e ridendo, e il giorno dopo il fratello l'ha trovato morto in casa, è venuto un infarto, 53 anni. Ma così che si manda la gente, giovane e tutto. Giovanetti, dovresti mettere un cricco per sollevarti. Ho detto che ti devi mettere un cricco per sollevarti. Vabbè. Un cricco delle buoni. No, io devo mettere il banchetto per il futuro, mi chiedo, perché se mi inchino non riesco a drizzarmi, e invece non c'era il banchetto. Io mai, non so se l'hai visto, vengono quelle maniglie che si attaccano alle mattonelle, e c'hanno le ventose, tu ti attacchi alla maniglia, cioè sono fortissime, e ti puoi attaccare alla maniglia per tenerti in equilibrio, capito? Ma in questo caso la maniglia non serviva a niente, perché la moglie era seduta proprio nella porta della doccia e io ero fuori, capito, inchinato. Ecco che se fosse stata la maniglia magari al parto dentro non sarebbe successo, però la maniglia ce ne sono due e per cui, ma fuori eravamo, capito? Vabbè, ma già serve, con la maniglia serve, mi sa che me la prendo, anche se costa quasi 50 euro, 49 qualche cosa, costa. Te ne danno due però, una in omaggio. Serve perché a volte per sollevarti quando ti stai facendo il bagno, perché a me piaceva stare a moglie, poi farmi la doccia, capito? Invece adesso non lo posso più fare, mi devo fare la doccia perché ho paura qui a sollevarmi e ho paura di cadere. Il bagno l'avevo tolto, la barca l'avevo tolto, mi sono fatta luce per essere dritto, capito? Anche da voi, mentre abbassava il bagno, guarda, non riesci a stabilire, non si chiama, non pensate, fa la luce e va bene ugualmente, ed è meglio, secondo me è meglio la luce della barca da bagno. E consumi meno acqua anche, Che la barca da bagno voglio portare più nella casa di quel bagno, io... Prima stavo a muglio mezz'ora, ci mettevo sali, quelli profumati, di tutto e di più. Mi piaceva perché stai a muglio, mi piaceva, non mi taglio mecciamelli. Già. Ma voi sei giovane, ragazzi, sono tanto assente, senti che le gambe non reggono più come prima, già, è un macello. Quando mi chino, se non c'è un appoggio, non ce la faccio a sollevarmi, capito? Mio marito considera che io sono stato operato a tutte e due le gambe. È già un miracolo che sei in piedi, perché io non camminavo. Tutte e due le gambe operate, non ti riguasco. Quindi sono giovane, però ho gli acciacchi lo stesso. Posso immaginare, dai. Va bene, dai, prova, che sei ancora. Io ci sono già, non lo lascio appendere. Non è che la parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra par sono ancora a sole. E a Visogu. Gli acciacchi, chi ce li ha se li tiene? Io so come la brodecchina, pure so come usato le due acchina mi duri. Tu, Giulia, chi c'ha acciacchi, ga? Avevo ragione una persona che mi diceva, mi sa che ti porto a Taguni, me ne prendo due. Due da 32 anni. E verso a te. Fermo così, fermo. Una a te e una a me. E così è ormai che siamo più bene a lui. Vabbè. Non ce la mettiamo, dai, c'è peggio di lui. Un attimo, già, dai, sto chiudendo già. Dai, buon proseguimento. Ci sentiamo. Ciao, Bru. Buon proseguimento anche a te. Sto rinfrenito io chiudo. Grazie a piccola chiacchierata, dai, fa sempre piacere ogni tanto, dai. Riprendi il tocco. Sì, ti risentiamo Gian Maria, alle prossime. Stammi bene. Avanti, avanti già. Ciao Gian Maria, ci sentiamo. Dai, io faccio una spazzolata e poi me ne vado, voglio vedere chi c'è là. E poi me ne vado giù perché devo portare il cane, dai. Ci sentiamo, poi si reca per me. Ciao a tutti, anche io sto chiudendo perché mi sono parlato un minuto, se no mi sono venuto a contare. Sentiamo, Padre Maria, ciao Gianni. Ok, ciao Gianni, ciao Bru, ci risentiamo alle prossime, ciao.